Il bene di tutti, parliamone. Rubrica realizzata dalla Pastorale Sociale del Lavoro della Diocesi di Padova. Conduce Andrea Cantun. Cosa vuoi fare da grande? Ve l'hanno domandato quando eravate bambini? E cosa avete risposto? Mi ricordo ancora il tono. Come ti chiami? Che classe fai? Cosa vuoi fare da grande? Che cosa vuoi fare da grande? È una domanda che facciamo con assoluta naturalezza, quasi senza pensare. Eppure, forse inconsapevolmente, vogliamo vedere nel piccolo bambino che ci sta davanti il germe di quel che sarà. Il poliziotto, il contadino, l'astronauta. Anche il bambino ha bisogno di vedersi con gli occhi del futuro, esprimere con chiarezza quello che in potenza già è. Perché il bambino non si vedrà da adulto come alto, basso, grasso, magro, tifoso di una squadra piuttosto che di un'altra, simpatico o antipatico. Ma si vedrà con una divisa da poliziotto addosso, con un camice da dottore addosso, con la tuta della NASA come un astronauta o con una vanga in mano come un contadino. Quindi con un ruolo preciso. Curare le malattie, esplorare la Luna, raccogliere i frutti della Terra. Prima del guadagno, prima della sussistenza, il lavoro ci dà un ruolo, uno scopo, una funzione da ricoprire all'interno della società. Ed è dunque naturale per ogni bambino aspirare ad essere qualcuno, ancor prima di fare qualcosa. La domanda quindi non dovrebbe essere tanto che cosa vuoi fare da grande, ma chi vuoi essere da grande? Forse, anche proprio per questa necessità per l'essere umano di essere utile, la nostra Costituzione fonda la Repubblica sul lavoro. Ma se il lavoro non c'è, su cosa si fonda la nostra Repubblica? Il beato Giovanni Paolo II, che è stato anch'egli un lavoratore manuale, nella sua enciclica Laborem Exercens ha definito il lavoro come la chiave essenziale di tutta la questione sociale. Ascoltiamolo. Dalla lettera enciclica Laborem Exercens del Beato Giovanni Paolo II. Il lavoro umano è una chiave, e probabilmente la chiave essenziale di tutta la questione sociale, se cerchiamo di vederla veramente dal punto di vista del bene dell'uomo. E se la soluzione, o piuttosto la graduale soluzione della questione sociale, che continuamente si ripresenta e si fa sempre più complessa, deve essere cercata nella direzione di rendere la vita umana più umana, allora appunto la chiave, che è il lavoro umano, acquista un'importanza fondamentale e decisiva. La Chiesa è convinta che il lavoro costituisce una dimensione fondamentale dell'esistenza dell'uomo sulla terra. Essa si conferma in questa convinzione anche considerando tutto il patrimonio delle molteplici scienze dedicate all'uomo: l'antropologia, la paleontologia, la storia, la sociologia, la psicologia, eccetera. Tutte sembrano testimoniare in modo irrefutabile questa realtà. La Chiesa, tuttavia, attinge questa sua convinzione soprattutto alla fonte della parola di Dio rivelata, e perciò quella che è una convinzione dell'intelletto acquista in pari tempo il carattere di una convinzione di fede. È con noi, carissimi ascoltatori, Don Giorgio Bozza, docente di morale sociale presso la Facoltà Teologica del Triveneto. Grazie, Don Giorgio, per essere con noi. Grazie a voi per l'opportunità. La festa del lavoro, e quanto lavoro vediamo anche nel Nuovo Testamento: San Giuseppe, falegname, carpentiere, Gesù lo stesso, San Paolo, costruttore di tende, Pietro, pescatore, c'è tanto lavoro. E per non parlare delle parabole in cui Gesù, se leggiamo bene, prende a prestito proprio dal mondo del lavoro tantissime immagini. È il contadino che esce a seminare, la donna che impasta la farina, il pastore, l'amministratore anche disonesto. È un mondo che Gesù conosceva bene, perché ha vissuto per 30 anni e lo usa proprio come modo, come immagini per annunciare il regno di Dio. E per far questo in modo il più efficace possibile doveva far uso un po' di questo repertorio di immagini che era comprensibile ai suoi contemporanei. Questa può essere una motivazione, però ce n'è un'altra che è una constatazione di fatto e molto più profonda, anche se pensiamo che un terzo e anche di più delle nostre giornate, della nostra vita, noi le passiamo a lavorare. È logico che queste attività non potevano rimanere fuori dall'annuncio del regno di Dio. se Cristo si è incarnato e ha assunto la nostra natura umana, doveva assumere anche questa dimensione fondamentale della nostra vita e doveva redimerla anche. Un po' di storia: chi non lavora nemmeno mangi. San Paolo scriveva ai cristiani che aspettavano la fine del mondo e quindi non lavoravano e facevano disordine. E perché è così importante anche il lavoro nella primitiva comunità cristiana, dove si lavora e si mette in comunione i beni? Perché al tempo di Paolo c'era un po' l'entusiasmo dei neoconvertiti, nel senso che ormai Cristo è venuto, ci sarà la fine del mondo fra qualche anno, e allora dicevano tanto vale fermarsi, non lavorare, divertirsi alcuni, oppure fermarsi e attendere questa venuta. E Paolo, da buon pastore di comunità, proprio per contrastare un po' questa falsa visione della fede, ribadisce la necessità del lavoro, è un po' per due motivi fondamentalmente. Uno, perché Cristo ha lavorato. Si è lavorato il Figlio di Dio, si è lavorato Dio stesso. Sappiamo che nella Genesi ha lavorato per 6 giorni e poi si è riposato nel costruire il mondo. E poi c'è anche un altro motivo, che sì, è vero che noi tendiamo alla vita eterna, ma questa vita eterna la dobbiamo costruire su questa terra, dice San Paolo, attraverso anche il nostro lavoro. Il nostro contributo è fondamentale per costruire il paradiso, diciamo così, su questa terra. E Dio, quando porterà a compimento anche questo mondo che noi abbiamo contribuito con il nostro anche piccolo contributo, il nostro lavoro. È proprio su questo. Noi abbiamo spesso una visione distorta dei santi, come o distorta o anche reale comunque, del santo chiuso in preghiera nella sua celletta a pregare 15 ore al giorno. Eppure anche nella storia dei santi, nel martirologio, ne abbiamo tantissimi santi lavoratori, ma penso anche a quel San Benedetto dell'Ora et Labora. Com'è cambiata con il cristianesimo nel mondo la concezione del lavoro? Sì, e com'è cambiata anche all'interno della stessa storia del cristianesimo? Sì, si dovrebbe un po' far memoria di come era concepito il lavoro prima del cristianesimo. Sappiamo che c'era una divisione nel mondo antico tra lavori cosiddetti manuali, lavoro fisico che snaturava l'uomo, ed era il lavoro che dovevano fare gli schiavi, e poi quello che era il lavoro, quelle le arti liberali come la cultura, l'arte, la filosofia, l'otium, che era proprio degli uomini di lettere. Questo realizzava pienamente la persona e il soggetto. Il cristianesimo cosa ha fatto? E i padri della Chiesa su questo hanno detto no, anche il lavoro fisico, il lavoro manuale, anzi era visto, è qualcosa di positivo, era visto come una medicina dell'anima, perché evitava di cadere nella tentazione proprio dell'ozio, che è la porta di tutti i vizi. E questo è l'evoluzione, cioè rivalutare positivamente anche la fisicità del lavoro come esseri umani, proprio per quel concetto dell'incarnazione. A me colpisce, citava proprio l'Ora et Labora, che ho letto qualcosa in giro, che i manager affermati oggi frequentano i monasteri benedettini per il giusto equilibrio. Lavoro e riposo. Ce l'ha raccontato proprio a questi microfoni l'abate di Praglia qualche mese fa. Ecco. Veramente, no, ma ce n'è proprio anche. È bello capire come formule di 1500 anni fa siano attualissime ancora oggi. Ci fermiamo qualche istante e torniamo tra pochissimo. Il bene di tutti, parliamone. E vado su, su, su, e vado giù, giù, giù, e vado su, su, su, e vado giù, giù, giù, e poi ancora su, su, su, e poi ancora giù, giù, giù, su e giù, su e giù, su e giù, su e giù. Strano io, strana questa vita, questa cosa qui. Ho il morale alle stelle, certi altri odio anche quelle. Un attimo prima son felice e faccio il pazzo, un attimo dopo mi son già rotto il cap. E vado su, su, su, e vado giù, giù, giù, e vado su, su, su, e vado giù, giù, giù, e poi ancora su, su, su, e poi ancora giù, giù, giù, su e giù, su e giù, su e giù, su e giù. Strano io, strana questa vita, questa cosa qui. Dentro l'ascensore, io volevo a tutti i costi fare l'amore. Anche a te non dispiaceva, solo che non era il momento giusto. E più mi dicevi così, più ci provavo gusto. E andavamo su, su, su, e andavamo giù, giù, giù. E andavamo su, su, su, e poi ancora giù, giù, giù. Blu Radio Veneto. Il bene di tutti, parliamone. Bentornati carissimi ascoltatori al bene di tutti, parliamone. Siamo in collegamento con Don Giorgio Bozza per la prima di tre puntate dedicate al lavoro, proprio nel mese o all'imminenza del mese del lavoro, che è maggio. Grazie per essere con noi, Don Giorgio. Prego, prego, eccomi qua. Prima stava ci ha detto come il lavoro sia stato anche rivalutato, anche il lavoro fisico, dal cristianesimo. E c'è, però c'è sempre stata un po' l'idea del lavoro come fatica, come condanna di Dio ad Adamo. Però c'è anche la possibilità dell'uomo con il suo lavoro di diventare collaboratore alla creazione, essere creatore insieme con Dio del mondo. Sì, è interessantissimo sulla Genesi, perché se leggiamo con attenzione anche proprio a livello di termini, il lavoro comporta fatica, stress, pesantezza, quando perde il suo senso, quando non si comprende per chi e per che cosa si sta lavorando. E proprio nella Genesi, prima della caduta causata dal peccato che ben conosciamo, il lavoro era compreso un po' come una collaborazione di Dio, come diceva lei. Il primo uomo si sentiva proprio collaboratore del creatore nel custodire il giardino. Dopo la caduta, anche a livello di termini in ebraico, il lavoro diventa condanna, peso, una fatica. E fatica che c'era anche prima del peccato, ma l'essere in piena comunione con Dio, il sapere perché stai lavorando o per chi stai lavorando, per un progetto grande, certo ti porta anche a superare le difficoltà, le fatiche in quanto tali. Ecco, il partecipare a un progetto meraviglioso che aveva in mente Dio porta a spendersi. Questo lo vediamo anche noi, tante volte il tempo passa velocemente anche se sta facendo del lavoro, ma se lo fa con passione, con gioia. Ho in mente tanti artigiani che non guardano l'orario, a volte non guardano neanche la retribuzione, ma per far bene quel lavoro, perché si sentono coinvolti a partecipare in questa armonia. Sì, so che un po' citare il diavolo e l'acqua santa, però il famoso marxismo parlava dell'alienazione del lavoratore, e proprio lei, insomma, quando un conto è essere su una catena di montaggio, un conto è l'artista, l'artigiano che dà vita a qualcosa, insomma. Sì. Abbiamo parlato un attimo del lavoro dal paganesimo al cristianesimo, però anche all'interno dello stesso mondo cristiano c'è modo e modo di vedere il lavoro. Penso il lavoro visto in ambito cattolico o il lavoro visto in ambito protestante. Mi viene in mente Calvino, che vedeva nel successo, nel lavoro, un segno della predestinazione, come a dire: il manager va in paradiso, il disoccupato va all'inferno. Perché i cattolici rifiutano questa visione? Lo rifiutano perché il valore, e noi sappiamo, la salvezza di una persona, la dignità di una persona non dipende da quanto o da quale lavoro svolge, o peggio ancora da quello che possiede. A volte il lavoro diventa un po' chiamiamolo un anestetico ad altri problemi, un tuffarsi dentro per non scoprire questo, per prendere in mano la propria vita, dare un senso che sappiamo bene lo trova anche attraverso il lavoro, ma non soltanto nel lavoro. Questo è il rischio a volte, altrimenti se uno perde il lavoro dovrebbe perdere anche la vita, se il lavoro è tutto, e anche la vita eterna. Noi cattolici su questo, insomma, diciamo no, la persona vale in sé indipendentemente dal lavoro, da quanto possiede e tutto il resto. Penso ad alcune società, io sono innamorato del Giappone, dove i suicidi sono altissimi e c'è una fedeltà totale all'azienda come una famiglia. Ecco, questa è una snaturazione forse dell'idea cristiana del lavoro. Sì, a volte diventa proprio un modo per noi interrogarsi sul vero senso che si vuole dare alla propria vita, perché il vero senso della vita, lo sappiamo, sì, contribuisce anche il lavoro a darlo, però la relazione, l'incontro con le persone, per i credenti, il rapporto con Dio, la preghiera, eccetera, tutti questi sono modi per incontrare il Signore. Ben venga il lavoro che ci dà, diciamo così, gli strumenti, i mezzi per la libertà di incontrare questo, di vivere pienamente questo. Proprio un anno fa, in questo periodo, avevamo dedicato una puntata al tema dei suicidi degli imprenditori, che in quel periodo sembravano essere scoppiati, e in qualche modo lo erano scoppiati veramente. Parlando con una psicologa, insomma, nel nord-est questo senso fortissimo del lavoro che diventa l'identità totale, ma c'è anche dell'altro. Certo. Cioè, il senso della vita, i padri della Chiesa proprio su questo tema dicevano che nella necessità estrema ogni cosa è in comune, cioè va condivisa, fino ad arrivare anche a prendere quello che è di un altro, se questo può aiutarmi a salvarmi da quello che potrebbe essere anche il suicidio, come accennava prima. E tutto il lavoro anche da noi credenti sarebbe aiutare queste persone a riscoprire altri valori, anche nella solidarietà, cercare di condividere per aiutarli ad uscire da queste secche che a volte può portare a, io credo, insomma, non sono un psicologo, però è la solitudine che può portare a questo. Quando si vive dentro una rete di relazioni, ecco le nostre comunità cristiane, le parrocchie, eccetera, uno non sente questo desiderio di farla finita perché si sente aiutato, a volte anche l'umiltà di chiedere aiuto. Questo potremmo dare un buon contributo come credenti se almeno noi ci mettessimo in gioco. Non sono tempi facili proprio anche per il mondo del lavoro, penso anche la crisi, ma anche un'imposizione fiscale abnorme sul lavoro che colpisce direttamente il lavoro. Di andarne di mezzo, a volte ci sono anche gli stipendi dei lavoratori. Ma qual è la priorità morale, le tasse o lo stipendio? Guardi, su questo credo che ci arrivi il buon senso di ogni persona. La domanda potrebbe essere formulata: vale di più il denaro, le cose o la vita di una persona? Risponde anche un bambino che vale di più una persona. Dopo, se la risposta è scontata, sappiamo che nel concreto vediamo ogni giorno che calpestiamo la dignità e la vita delle persone per la ricchezza e altro. Il lavoro ha priorità su tutto, ma perché dietro il lavoro c'è una persona? Anche il lavoro è uno strumento, diciamo, un mezzo per, ma dietro il lavoro c'è una persona con la sua vita, i suoi sogni, i suoi desideri. Allora è scontato che ha la priorità, è scontato a livello formale. Dopo, concreto, vediamo come sono le cose ogni giorno. Il lavoro quindi non è solamente la cosa che ci permette di portare a casa lo stipendio, ma anche qualcos'altro? Sì, sarebbero tante le definizioni, gli aspetti positivi. Una su tutte, le responsabilità di fronte agli altri uomini, un modo per rispondere, perché questo è il significato un po' etimologico di responsabilità, rispondere a un appello, che a una chiamata che viene, non so, dalla famiglia, dagli altri, che viene da Dio se uno è credente, che viene dalla natura, il prendersi cura. Il lavoro poi è anche solidarietà, non è lavorare contro qualcuno, lo ribadisce spesso la dottrina sociale della Chiesa, ma è lavorare con qualcuno, per qualcuno. un mettersi in relazione, un dialogare, un collaborare, un incontrarsi, tutti questi significati che andrebbero riscoperti anche, forse aiuterebbero a dare un senso anche al nostro lavoro. Don Giorgio, abbiamo ancora 30 secondi, abbiamo parlato di lavoro, del senso del lavoro, del valore del lavoro, però ci stanno ascoltando, tra i nostri ascoltatori ci sono anche tanti disoccupati, che messaggio darebbe loro? Sì, per non dire cose scontate mi verrebbe da dire di non disperare. Allora, disperare significa venir meno della speranza, cioè mancare, perdere la speranza, e credo in forza anche della loro fede, se uno è credente o anche se uno non è credente, di ritrovare quelle risorse che sono dentro il nostro cuore, che in profondità ci sono, che ci possono aiutare, e chi sta bene magari aiutiamo queste persone a tirar fuori il meglio che c'è dentro di loro, perché in fondo c'è sempre un qualcosa di buono che ci può aiutare anche a riscoprire, a inventarci un lavoro. Ecco, l'importante è non disperare, per un cristiano non può questo, perché altrimenti si cade veramente nel pessimismo e poi con conseguenze drastiche anche. Grazie Don Giorgio per essere stato con noi, grazie per le sue parole. Grazie a voi, arrivederci, alla prossima, arrivederci. Carissimi ascoltatori, ci troveremo nuovamente la settimana prossima per un'altra puntata dedicata al lavoro, in particolare al lavoro che non c'è, con il professor Gianni Saonara. Potete riascoltare questo e tutte le nostre puntate sul sito di Blu Radio Veneto. Andrea Cantona vi saluta, alla prossima. Avete ascoltato Il bene di tutti, parliamone. Rubrica realizzata dalla Pastorale Sociale del Lavoro della Diocesi di Padova.